Laureato con una tesi sui limiti del decostruzionismo in Derrida, lavorava un dottorato, firma e un mutuo pieno di entusiasmo. Finito il dottorato finì anche il tempo di pensare, ma avevo un amico, un logopedista avanguardista, mi consigliò cosa fare. In questo periodo c'è sicuramente da vendemmiare, così trovai un campo e ci andai con Derrida e un mutuo da pagare. Io filosofo decostruzionista col mutuo da pagare, pensai. Ebbene, nonostante tutto, pensai. Ah, chi me l'ha fatto fa di andare via da mamma? Io che non sono stato mai figlio di papà, ma no, dissi, questa non può essere la vita mia. A discutere di coltivazione di barbabietole con contadini con un piede nella fossa, disoccupato con laurea un mutuo andai dall'amico del mio amico logopedista, farmacista stressato con una moglie che lo tradiva. Mi disse che avrei potuto prendere il posto della moglie. Chiesi a farti le corna o stabilire appuntamenti al CUP, ma prese male la mia battuta di comicità inglese fuori luogo. Fuori luogo come me che ancora una volta ripensai. Ah, chi me l'ha fatto fa di andare via da mamma? Io che non sono stato mai figlio di papà, a 30 anni sono giovane, ho una laurea, troverò qualcosa. Nel frattempo incontrai una donna e per conoscerla meglio ci feci un figlio. Poi scoprì che erano 2 gemelli ma potevano diventare la spinta giusta. Per un po' di tempo eravamo allevatori di un'importante catena internazionale di ristorazione. In pratica ero un dipendente del McDonald's, ma c'era sempre un sacco di gente anche lunedì. Dopo qualche tempo chiusero la sede a causa della concorrenza di una focacceria che fu aperta da una coppia di fratelli che di cognome facevano di Gesù. Bestemmiai come un vecchio contadino toscano mentre la moto zappa gli perde benzina e pentito pensai a chi me l'ha fatto fa d'andare via da mamma. Io che non sono stato mai figlio di papà. Per concludere questa favola canterò così. La morale sarebbe la seguente. Per te che non sei figlio di papà, finché dura fatti mantenere da mamma, però ogni tanto dille anche grazie.